una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte, eccoci arrivate anche questo martedì. Siamo pronte per una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Come al solito, il coordinamento lesbiche romane vi saluta e questa sera siamo Annalisa ed io, che sono Lucilla. Allora, ripetiamo alcuni pezzi che vi abbiamo fatto sentire l'altra volta. Il primo si intitola Libere di scegliere. Trasmettiamo la 59esima trasmissione di una... Eccoci, c'è stato un piccolo errore tecnico, siamo a posto. Allora, il pezzo si chiama Libere di scegliere. Il 17 novembre 2000, presso la Regione Lazio, si è tenuta l'assemblea pubblica dal bellissimo titolo Libere di scegliere. Alle 16, ora fissata per l'inizio, la sala era già gremita di donne. Il comitato promotore dell'iniziativa si è costituito alla fine di settembre, dopo le provocatorie dichiarazioni di Storace circa riferimenti di tipo etico, quali tutela della vita fin dall'inizio del concepimento, da inserire all'interno dello statuto regionale. Il comitato donne del Lazio a difesa della 194, costituito da singole di varia provenienza sociale e da associazioni sociali e politiche, ritiene inaccettabile e pericoloso l'attacco del presidente della regione, che vuole chiaramente rendere difficile il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza e non solo. Il comitato si propone di monitorare l'applicazione della legge 194, di vigilare sulle interferenze circa la vendita della cosiddetta pillola del giorno dopo, di rilanciare proposte sui consultori pubblici. Ovviamente sono intervenute le varie donne politiche che hanno aspramente criticato la dirigenza regionale a proposito degli attacchi all'autodeterminazione delle donne e denunciato lo stato dei consultori lasciati alla deriva. C'è voluto l'intervento di un'operatrice per ricordare che proprio l'altro ieri la direzione regionale non era di centrodestra e che è stata proprio la sinistra a disattendere la legge 1576 istitutiva dei consultori. Solo sul territorio romano ne sono aperti 50 contro gli oltre 120 che dovrebbero esserci per legge. Stessa sorte tocca alla provincia e nel resto della regione. Nessuna si ricorda però di dire che l'accesso ai consultori è complicato oltre non solo dalla disattenzione della legge, dalla fatiscenza delle strutture, dagli scarsi finanziamenti, dal boicottaggio attivo attraverso le varie obiezioni di coscienza, ma anche da una profonda discriminazione. Non a caso si chiamano familiari. Le lesbiche non vengono previste come utenza in nessun modo. Vi si regola la maternità libera e consapevole, la contraccezione, l'interruzione di gravidanza, ma la salute e la libera espressione di sessualità no. Noi denunciamo insieme alle politiche, alle donne, alle operatrici, alle utenti, quanto sta avvenendo ad opera delle destre e della Chiesa nella nostra regione. Respingiamo con forza gli attacchi alla libertà di scelta delle donne. Aderiamo alle proposte del Comitato, aggiungendo una nota circa la struttura sanitaria e la cultura della differenza. Un campione di circa 100 donne lesbiche, intervistato da alcune di noi, rileva la difficoltà delle lesbiche di avvicinarsi a strutture sanitarie pubbliche e a dichiarare in tali ambiti la propria identità. Molte non si sono mai sottoposte a visite ginecologiche o ai normali controlli per la prevenzione dei tumori e vi ricorrono solo in seguito alla comparsa di sintomi preoccupanti. La paura e la sfiducia deriva dal fatto che le strutture sanitarie sono fortemente caratterizzate da eterosessismo, ovvero da convinzioni, atteggiamenti e pratiche basate sulla presunzione dell'eterosessualità come unica forma possibile.